don't like, I don't like, I don't like my. Ho capito. Non ti piace il lunedì, ma sono le 5 meno un quarto. Ormai dovresti avere metabolizzato il fatto che il lunedì, anzi, il lunedì è quasi finito, come se fosse martedì, no? Dai, capo, vedila così, cioè, ma, tanto voglio dire. Ma martedì, lo sai, è peggio, perché è il giorno più lontano capito, della settimana. Però, insomma, del un passo, poi si arriva al guado e tutto quanto. Ma oggi è venerdì, eh? No. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K. E un saluto da Drago. E un saluto dal mio nuovo Buzuki. Ukulele, no. Vabbè, ma volevo essere gentile con i greci. Con i greci, si ha bisogno, bisogno. Ukulele un po' di resonator. Coraggio, fate di neozelandese. Chissà sì. Come se la passano in Nuova Zelanda. Se ne fregano di tutto, della alla Grecia, grande. Dell'Europa, della la Merkel. Crisi non stanno nel mia. Se ne fregano anche della salute dei bambini italiani. Cosa che invece ci è molto a cuore qui a Chiedo Asilo. Sì, la sì. Salute dei bambini salute, italiani. Salute, sì, sì. Una volta si sarebbe detto che si spende troppo poco per la salute dei bambini. Adesso sì. Invece i pediatri italiani si vantano di far spendere pochissimo a chi ha dei bambini. In tempi di crisi ogni tipo di risparmio è benvenuto, quindi i dati che arrivano, dati ufficiali che dicono che per spese mediche per i bambini si spendono 260 euro all'anno contro i 1000 che il Servizio Sanitario Nazionale spende per gli adulti, è una buona notizia, capito? Chi se frega, tanto oggi è lunedì. Quindi. Però attenzione che questo dato va a smentire un altro dato che arriva da Cineca. Capito? Da? Cineca, che è un misterioso consorzio universitario bolognese. Vabbè, meno male, pensavo fosse un'università tipo in California, l'università di Cineca, è una cosa italianissima, di Bulagna. Bene, secondo Cineca si somministrano troppi antibiotici ai bambini, troppi, capito? Les antibiotiques c'est pas automatique, infatti, a motivarla bisogna spendere ancora meno di quello che si spende. Ma non so se sia quella la soluzione del problema, tu in realtà. Spendi meno, cioè tanti antibiotici, sì, ma a buon mercato. Ma no, pochi antibiotici. Comunque, quello arriva. L'idea di fondo di tutta sta propaganda, Drago, è non curate più i bambini. Loro, essi vogliono così. Ma quale idea di fondo? Lasciategli la febbre. E quale propaganda? E poi chi sono loro? La quinta capito. Malattia. Loro. Il governo tecnico, i potentati economici, i poteri forti, il grande vecchio, la spectre. Ma sì, guarda che conto. Loro. Ma il conto di quanto si spende per le cure dei bambini e il fatto che si somministrano troppi antibiotici ai bambini sono due cose distinte che io ho messo insieme deliberatamente. Ma se fa automatica. Un cortocircuito, capito? Se fa automatica, è Drago. Si fa spesso alla radio, il cortocircuito. Comunque è così che si crea la paranoia. Quale prendendo paranoia? A caso dati diversi, a caso, dati diversi, sì. Creando un quadro coerente tra di loro per spiegarli, capito? Dopo. Dopo, certo. In questo caso una mente contorta come la mia potrebbe gridare... non so, cosa potrebbe gridare? Non lo so. Complotto di Erode! Ma cosa dici? Dai, che tipo, poi sì, Cos'è il complotto di Erode? Il complotto che loro stanno tramando contro i bambini. Ma vabbè, no? Ma lasciamo Erode. Perdere queste cose. Sai come si dice al ristorante quando c'è un bambino che piange di fianco e rompe le balle? Erode! Ma come Erode? Mia madre lo diceva sempre. Ma come? Ma è terribile. Erode! Questo. Vabbè, comunque, dai, è così che succede. Quindi la paranoia cresce per questo motivo, tu dici. Sì, vabbè, lasciamo perdere adesso Erode. Il complotto, Erode, i bambini. Ma cosa stai dicendo? Perché lasciamo perdere? Lasciamo perdere. Loro vogliono che si azzerino le spese mediche per i bambini, Drago. È come dire, lasciamoli morire. Ma a parte che va bene, non è che ci siano poi così tanti bambini che muoiono al giorno d'oggi, anche senza chissà quali cure. Al massimo possiamo dire che loro stanno invitando le famiglie a usare metodi di cura alternativi alla medicina tradizionale, basta antibiotici, no? Tipo la cura di Erode. No, tipo roba ayurvedica, magia bianca, ma medicina ayurvedica, cinese. Ayurvedica, non ho mai capito che cosa volesse nemmeno dire. Nemmeno io, ipnosi, cannabis sativa, tutta roba che non tocca le casse del servizio sanitario locale, capito? Sì, è roba che si fuma però, si fa in nero anche. Anche la cannabis sativa? Perché ti ha mai fatto la fattura, scusa? E ora, bambini, ricreazione! Pronto? Sì, io stavo chiamando per il trapianto, sì, quello con impianto monobulbare, Sì, avrei anche una certa fretta. Ma cosa sta dicendo? Attendo un attimo trapianto, in linea. Impianto. Sì. Bambino Alberto, con chi stai parlando? Soprattutto di cosa stai parlando? Monobulbare, cosa Aspetta dici? Un allora? Cosa? Magari li chiamo io? Ma, va bene, fa 20 minuti, ok. Niente, ho il telefono, sto cercando di fissare la data del trapianto, no? Trapianto. Ma quale trapianto? Ma ti è successo qualcosa? Dei problemi? Cosa ma succede? No, ma sto benissimo, il trapianto di capelli, no? Ma scusa, tu i capelli li hai? Vabbè, cosa c'entra? Io i problemi li anticipo, no? Visto che l'app anti-bully dei miei genitori non funziona sì. E mi devo difendere, Mi sono buttato sulla chirurgia estetica. Ah, l'app antibulli, quella che praticamente dal telefonino tu schiacci. Chiamava lupo al lupo, poi non è più venuto nessuno, anzi lo riempiono di botte. Invece adesso non ho capito il nesso tra la chirurgia estetica e l'antibullismo. Certo, questa è la nuova frontiera della difesa contro il bullismo. Questo l'ho visto su internet, no? È cominciato in America, adesso arriva anche qua. E cos'è? Cioè, praticamente, no? Si stanno ricorrendo alla chirurgia estetica per evitare di essere presi in giro e umiliati, no? A causa dei difetti fisici, no? Uno non è bello, lo prendono in giro, c'ha il nasone, c'ha il piede porcino. Ma è normale, c'è il piede porcino. C'ha l'unghia incornuta. Capito? Quella roba lì. Incornuta. Sì. Allora, non è poi basta intervenire sul proprio corpo in anticipo per essere prova di bully, no? Bully. Cioè, che non c'è uno, non può dire niente. Siccome tu pensi di poter perdere i capelli, eviti facendoti il trapianto che i bulli ti dicono tu perderai i capelli che è una cosa ma cosa dicono intanto... poi i tuoi genitori di tutto questo cosa dicono, perché l'app antibulli hanno un'idea anche loro, ma per adesso non lo sanno. Ecco. Verranno a saperlo il 15 del mese prossimo. E perché? Cioè, è perché ogni 15 del mese c'è l'addebito della carta di credito, no? Ho capito. E siccome io sto usando di straforo la carta di famiglia. Bravo. E adesso questione di tempo. Vabbè. No? Ma a quel punto il dado sarà tratto. Ma, cioè, ormai ma, è andato. Ma quale no? dado? Ma come parli? Ma allora, a quel punto il dado di tuo padre comincerà a girare, non sì. tratto. Oppure gli tirerà un dado in testa, direi. Un dado di quelli però metallici. Ma perché? E perché? Stai saccheggiando la carta di credito dei tuoi genitori per farti un trapianto, voglio dire, all'età ma che no! non so. Ma no, sei anni. Non avete capito, mica solo per il trapianto. Io voglio essere inattaccabile, no? Quindi in programma, allora, una rinoplastica. Sì. Il lifting per il doppio mento. Beh, quello... Perché? Quello lì. Sì. Il mini lifting dell'addome. Mini, perché... light, no? Diciamo sì, che noi non avendo né la necessità né ora né mai, vabbè, quindi è inutile, però noi lo facciamo perché intanto ho capito. Ma il lifting dell'addome, scusa, è l'unico vero che poi tra l'altro non è un lifting, è una liposuzione dell'addome. Bisogna forse... fare, il problema è che gli avanza tanta di quella pelle se fa la liposuzione, che poi dopo voglio vedere cosa fanno, una specie di sacco e lo chiudono, gli fanno un nodo sulla testa. A questo così. Punto il trapianto di capelli potrebbe non servire perché con il fiocco in testa. Hai capito? Allora, intanto problemi di pelle in abbondanza non ce l'è, perché poi dopo c'è il tiraggio, che ci sarebbe un tiraggio, no? È tutto calcolato. Allora, ci sarà un periodo in cui ci sarà un po' da soffrire, in effetti. Ma sì, diventi come Michael Jackson, quindi praticamente tutti ti fanno i bulli, perché ti vedono con tutte le ferite. Sì, ma ragazzi, degli interventi. Sarà solo una questione temporanea, no? Ah, sì, come no. Perché, perché soffrirò, ma con la consapevolezza, no? Per esempio, faccio un esempio, nessuno mai nella vita potrà prendermi in giro per il doppio mento. Quindi intanto soffro adesso, ma poi... Sì, ma tutto tirato, con gli occhi cinesi, sembri un alieno poi, capito? No, sì, anche le orecchie. Ecco, appunto. Magari si lasciano andare. Ma sarai orribile, ti prenderanno in giro per quello. È orribile! Si tratterà solo di far passare quel quid di tempo necessario, no? Quid. Nel frattempo avrò qualche difficoltà di comunicazione, magari. Perché? Visto tutti gli interventi, no? Sì. Gli occhi tireranno un po' verso l'esterno. Sorriso un po' rigido. Il mento tenderà a scomparire, no? Temporaneamente, avendo fatto l'intervento per il doppio mento. Sì. Praticamente adesso ne aveva uno solo, ne ho tolto uno. Assomiglierà un po' a Carla Bruni. L'hai vista ultimamente? Carla Bruni, un po' cinese, un po'. È uscita dall'Eliseo. La moglie di Hollande, una signora fantastica. E lei è una specie di cinese. Allora, volete mettere? Cosa? Cioè, qui vorrebbe dire buttarsi alle spalle per sempre il problema del bullismo, no? Vado in mezzo ai bulli, è inattaccabile, no? Capito? Ma inattaccabile cosa? È una cosa impagabile. Ah, impagabile. Beh, impagabile. Tuo padre sta pagando, quindi non è che sia tanto impagabile. È pagabile. Vabbè, sempre con questa storia dei soldi. Come soldi. Siete veniali. Io parlo di soddisfazione interiore, no? Sì. Soddisfazione impagabile. Impagabile. Anche i miei genitori dopo un po' capiranno. Saranno felici di avere un bambino sempre sereno, no? Sereno e tranquillo. Sì, sereno, tranquillo. Con la faccia di gomma flex, tutta una roba. Ma chi è gomma flex? Vabbè, Carla Bruni, quello che vuoi. E poi cosa sarà mai sto mento, no? Per essere così indispensabile. Beh, il mento. Tanto c'ho il trapianto. Allora. I capelli. Ho già un trapianto. Ho i capelli trapiantati su quelli veri, no? Così quando perdo. Se perdessi i capelli, che magari non li perdo mai, tengo i doppi capelli tutta la vita, no? E quelli c'ha doppi come capelli. Come Conte. E allora è uno che... No, Conte era calvo e se li ha rifatti da zero. Che doppi capelli. E Conte ha fatto i problemi, no? Beh, ha vinto lo scudetto. E appunto, se lo vedo per strada, lo tiro sotto con la macchina. Love of my life. Love of my life. I love you so. Love of my life. Love of my life. Don't ever go. Love of my life. I love you only. Love. love of my land. E io sono stremato, capito?